Continuiamo a parlare del Festival della Partecipazione che si svolgerà domani qui a Bologna, il 18 settembre, allo spazio Dambo in via Casarini. Dopo un'introduzione con Katia Scanavini di ActionAid, ora ne parliamo con Annalisa Mandorino di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'edizione di quest'anno prende in esame, insomma, la questione del PNRR, del monitoraggio. In realtà, come dire, nasce dall'anno scorso, da Follow the Money, che era un'iniziativa proprio in cui accendavate già la luce sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Esatto, alla fine del festival dello scorso anno, che si è tenuto anch'esso a Bologna, abbiamo lanciato questa iniziativa Followed Money, che è una iniziativa di mobilitazione dei cittadini intorno al piano nazionale di ripresa e resilienza, un piano molto ambizioso e rispetto al quale all'Italia vengono assegnate risorse ingenti e quindi che richiede un coinvolgimento attivo, una partecipazione dei cittadini in tutto il processo per fare in modo che questi fondi, queste risorse e le riforme che il piano contiene siano implementati nel modo migliore, rispondendo a quelli che sono i bisogni e i desideri reali dei cittadini. Per questo quest'anno riprendiamo la campagna lanciata lo scorso anno e ne fotografiamo un po' gli sviluppi e anche i punti critici. Nel dibattito di domani mattina avete anche relatori che vengono da altri paesi. Sì, abbiamo sentito un po' l'esigenza, no? Visto che per tutto l'anno abbiamo fatto tante cose, costituito un osservatorio indipendente sul piano nazionale di ripresa e resilienza, fatto tutto da soggetti della cittadinanza attiva. Abbiamo sentito l'esigenza di paragonare un po' quella che è l'esperienza italiana di partecipazione in merito al piano con altre esperienze che saranno presentate sistematicamente domani in altri paesi d'Europa. Ci siamo accorti fondamentalmente che il piano nazionale di ripresa e resilienza, o come nei vari paesi è chiamato, costituisce un oggetto di dibattito e di confronto negli altri paesi, e forse questo nel nostro paese non è avvenuto, sicuramente non nella misura in cui noi ci aspettavamo e avremmo desiderato. Quali sono i rischi se non c'è un monitoraggio da parte anche appunto della cittadinanza di piani di questo tipo? Secondo noi i rischi sono nel fatto che le misure che poi si andranno a implementare o le riforme che si andranno a definire non siano rispondenti, coerenti con i bisogni, le aspettative, i desideri delle comunità, delle organizzazioni dei cittadini, ma anche proprio dei cittadini singoli che vivono i territori, perché poi non dobbiamo dimenticare che questo piano sarà messo in atto, messo a terra soprattutto ovviamente a livello degli enti locali, dei vari territori, quindi sarebbe molto importante capire quali sono le aspettative dei cittadini e proprio le loro esigenze per costruire un piano che sia rispettoso delle differenze dei territori, perché in molti punti del piano ci sembra invece che ci sia un disegno un po' troppo calato dall'alto, un po' poco rispondenti a quelle che sono le esigenze reali dei vari territori e le differenze, soprattutto anche le disuguaglianze tra i vari territori del nostro paese. Uno dei punti su cui battete molto è quello degli open data. Perché? È perché gli open data sono il prerequisito per la partecipazione e la partecipazione dei cittadini non è possibile senza che essi abbiano a disposizione le informazioni per poter portare a compimento, diciamo, la loro partecipazione e il loro coinvolgimento. Quindi la trasparenza dei dati, che non significa soltanto informazione sulle cose che si fanno, ma proprio avere dei dati che siano leggibili, che siano interoperabili, che siano aggiornati in maniera continuativa. La trasparenza dei dati è il presupposto, lo strumento attraverso il quale la partecipazione viene resa possibile. Se nessuno mette a disposizione i dati in formato aperto, come ovviamente le normative del nostro paese e di tutto il mondo, insomma, che è attento a questi aspetti, prevedono, è chiaro che poi anche la partecipazione risulta impossibile o almeno molto molto indebolita. Una domanda più generale: il festival è la sesta edizione, appunto si parla di partecipazione, insomma voi che lo organizzate avete forse anche il polso della situazione, e chiedo se c'è voglia di partecipare o prevale la rassegnazione nei cittadini e nelle cittadine? Noi promotori del Festival della Partecipazione ovviamente partiamo dal presupposto e dalla certezza e dalla consapevolezza, perché poi nel nostro quotidiano è questo che proviamo proviamo a fare, su questo che proviamo a dare un contributo, che ci sia una grande voglia di partecipazione dei cittadini. Ovviamente la voglia di partecipazione dei cittadini deve essere in qualche modo favorita, le istituzioni, ed è proprio questo anche l'obiettivo del festival di domani, e si dovrebbero porre il problema di come facilitare questa partecipazione, non di come renderla più difficile, perché ovviamente se poi manca questo favore, questo sostegno delle istituzioni ad attuare, a consentire, a mettere a disposizione gli strumenti che consentono la partecipazione, è più difficile per i cittadini che anche hanno voglia di partecipare poterlo fare. Quindi insomma il nostro festival sicuramente mette in rilievo la voglia di partecipazione dei cittadini e dall'altra parte, da sempre, dalle prime edizioni, mette in rilievo la necessità di condizioni abilitanti con cui le istituzioni favoriscono questa partecipazione. Allora io ricordo che il programma completo, con tanto ovviamente di ospiti e relatori, si trova sul sito festivaldellapartecipazione.org e che l'evento si svolgerà domani, sabato 18 settembre, ad Ambo, in via Casarini a Bologna. Grazie mille Annalisa Mandorino. Vi aspettiamo, grazie a voi, buona giornata. Altrettanto.